Italia in controluce. 13:34 minuti, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, anche oggi il nostro appuntamento con i fatti, le storie e le eccellenze che raccontano la nostra Italia in controluce. E vogliamo parlare ancora della nube di cenere islandese che sta passando sopra l'Europa e sopra l'Italia. In particolare l'Italia si trova sul fronte tra nord e sud ed è divisa in due. A nord le polveri sopra i nostri cieli, sopra le nostre teste, a sud no. Osservata dai radar del CNR di Firenze, però la nube e le polveri appaiono di bassa concentrazione, dicono i ricercatori, anche se sembra che proprio in queste ore il fenomeno si stia intensificando. Allora, Adriana Fracchia ha sentito Massimo Del Guasta, ricercatore presso l'Istituto di Fisica Applicata al CNR di Firenze. In Italia abbiamo cominciato a registrare da ieri con strumentazione di tipo LIDAR, quindi con una serie di radar ottici, la presenza di questa famosa famigerata nube vulcanica. L'abbiamo osservata a Firenze, è stata osservata a Roma e credo anche a Bologna, la sto controllando stamattina, e di fatto è uno strato di polveri di origine appunto vulcanica che all'incirca è situato fra i 1500 e i 3000 metri di quota, quindi relativamente bassa. E finora è stata piuttosto debole, cioè non più intensa di un normale arrivo di polveri sahariane, quelle per intendersi che sporcano le automobili, e per il momento non ci ha dato particolari preoccupazioni dal punto di vista, diciamo, della concentrazione delle polveri. Sembra comunque che ci sia un continuo aumento di questa concentrazione, quindi nelle prossime ore vedremo. La cosa bella di questo evento è stato che finalmente fra diversi laboratori ci siamo cominciati a parlare, a telefonare e a scambiarci con una rapidità forse inusuale per l'Italia delle informazioni così di abbastanza fresche. A mio avviso per l'Italia è stato forse un po' un eccesso di zelo bloccare gli aeroporti, perché la nube in realtà che vediamo adesso non farebbe paura certo a nessun pilota, però in qualche maniera, diciamo, forse è meglio aver paura che buscarne, come si dice in Toscana. Si sta notando comunque un'intensificazione di questo fenomeno della nube di cenere. Dunque, ora a quello che vedo stamattina, perché anch'io sono soltanto uno dei diversi laboratori in cui si fanno queste ricerche, sembra che in Italia almeno ci sia un leggero aumento, e almeno anche noi come strumenti abbiamo visto una concentrazione un po' più elevata stamani. Comunque secondo me noi riceviamo un po' siamo ai margini del fenomeno, riceviamo soltanto una piccola parte di quello che riceve invece il centro Europa. Probabilmente le Alpi fanno il loro effetto di barriera, e vedo che a nord della Svizzera le concentrazioni sono molto più elevate e la nube è più evidente. Comunque ieri sera, se qualcuno ci ha fatto caso, al tramonto un particolare alone rossastro attorno al sole è un indizio per noi, ci abbiamo un po' l'occhio allenato, della presenza di polvere in sospensione di tipo, diciamo, assorbente, quindi in genere sono polveri vulcanici oppure da incendio. Italia in controluce. La nube di cenere dunque si vede al tramonto, ma adesso un'altra storia. La ricostruzione dopo i terremoti da sempre in Italia apre capitoli di spesa che spesso non si chiudono mai. Rimborsi doverosi alle famiglie che hanno perso una casa, certamente, ma anche rivoli infiniti di spesa pubblica che contribuiscono a un debito record come quello italiano. Allora, non fa notizia il fatto che, mentre si parla dell'Abruzzo e qualcuno fa il confronto con l'Irpinia o con il Friuli, nell'ultima finanziaria, tenetevi stretti, tenetevi forti, c'erano ancora fondi per il sisma del Belice, 1968. Gianpiero Casagni. Chi ha preso i soldi del Belice? Guardava la parte, cavolo. Noi siamo rimasti un po' di agitpoa, ma ce l'ho con noi il presidente che guarda chi ha preso i soldi del Belice. Agitpoa, ma li scopriva tu i soldi del Belice, che facciamo si figure niente con il presidente, che c'è dei soldi, che presidente. Cioè, se mio padre ha detto che i soldi del Belice non l'ha toccato, non l'ha toccato.